24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, all'inglese, con doppio turno, alla francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Dobbiamo portare avanti il patto Berlusconi-Renzi, questo non c'era, e poi le devo dire che non era questo il momento, e poi guarda che è abbastanza offensivo arrivare in Parlamento per una quota. Ci sono le quote latte. Le quote latte! Le quote latte! E peraltro ieri erano tutte vestite di bianco e quindi le quote latte, sì, era riferita a questo, non lo so. Era Daniela Santanchè che parlava delle quote rosa o quote latte o quote bianche o quote rosa, insomma quella cosa lì che è stata bocciata sonoramente col voto segreto. E quindi sulla legge elettorale, su questo c'è. Che fanno ora le donne parlamentari? Si incazzeranno e bloccheranno la legge elettorale? Chi lo sa? Sta di fatto che molte sono imbufalite. Rosy Bindi, per esempio, dice: io non voterò la legge elettorale. È stato messo un vulnus. Inaccettabile questo delle quote rosa. Cari italiani, buongiorno alle 6:34 minuti, questo è 24 mattino, saluto Miriam Lucchetti, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, e soprattutto, vabbè, ma no, ve la dico tra poco, la frase dell'onorevole Giuditta Pini che ha fotografato la situazione sulle quote rosa. La dico dopo che abbiamo aperto il Parlamento, Nel nostro Parlamento, tra l'altro, il caffè volentieri a tutti quanti. Tra l'altro, le quote rosa sono rispettatissime, perché per un Marione Adinolfi, che saluto, Marione, buongiorno, forza Milan come sempre. Sempre. Tanto noi siamo in Champions League. Sì, bravi, a meno 37, però va bene. 37, li hai contati tu? Sì, sono 37 punti in sacco, non ci pensare, Milan, forza Milan. Cavolo, miseria, 37 proprio non li avevo contati, ma sei sicuro? Sì, conta. Ma 37? 72 a 35, ti rendi conto? Ma no, 37 no, dai, sono troppi. Sono 37 punti di distanza. Ah, non ci credo, datemi una classifica subito, non ci credo. Dai, 37 no, sono tanti. Che ti svegli male. Saranno 15 punti, saranno 15-20, non lo so. Ma non lo so, ma mi sembra strana questa cosa, ma adesso andiamo a fare i controlli. 37 punti, ma adesso non sbaglio mai sui numeri, come sulla legge elettorale. Viva la Santanchè, a proposito. Viva la Santanchè. Comunque le quote rosa sono rispettatissime, perché abbiamo insieme a Maria Adinolfi Aurora Lussana, quindi un uomo e una donna, noi mettiamo in lista un uomo e una donna, Aurora Lussana, eccoci. Ma buongiorno Milan, no, ma scusa, oppongo subito la mia obiezione di coscienza, quindi mi chiami solo per garantire la parità di genere? Pare, sì. Beh, a dire la verità ti chiamavamo anche le settimane scorse, però insomma. Ah, effettivamente. Eccola, no, così mi piace, no. Ecco, dai, di subito che siamo la terza radio, no, la seconda, siamo davanti a Radio Yes, non lo so come gradini. No, beh, Radio Padania ovviamente, sì, nel certo, cuore di tutti i leghisti. Vabbè. Però posso dirti che di nuovo ero alla manifestazione della Lega sabato a Cantù, sì, contro la costruzione di una moschea, pensa a te, in una cittadina come Cantù. Notizione. La moschea, ma incredibile. Arriva il leghista di turno che di nuovo mi fa: ti ascolto sempre dal Milan, quindi ormai è certificata la mia affermazione, fact check. Dopo Radio Padania mi sa che le ghisti ascoltano Radio 24. Eh beh, certo, è chiaro. E Radio Yes, ovviamente. Radio. Mi vale dopo. No. Radio, i leghisti non ti chiamano, Mario. Ma io il leghista l'ho messo pure nello spot, quindi figura. Ah, nello spot. Comunque, il vince. Sapete cosa ha detto l'onorevole Giuditta Pini? Che era quella quando c'era stata l'accusa, voi siete qui perché fate, ha detto: io sì, ho preso 5.000 preferenze, mi fa male ancora la mascella. Ma l'onorevole Giuditta Pini ha detto anche questo, che lo spirito di Lorena Bobbitt accompagni i colleghi che hanno bocciato l'emendamento sulle quote rosa. Peraltro è viva Lorena Bobbitt, quindi lo spirito non deve... caro Marione Adinolfi, che... un Giuditta Vini adesso si merita un 10, 100, 1000 Sant'Anchetto. Che lo spirito di Lorena Bobbitt, quella che evirò il marito, no? Sta male Giuditta Vini. Sta male. Donne che odiano gli uomini. La carriera, è chiaro che è complicato. Vabbè, il problema qui è che mi sa che anche Aurora Lussana avrebbe votato contro questo emendamento, Sì, è un'aberrazione. Eccolo lì. Poi ieri questa sfilata così di queste vestali della parità di genere mi è sembrata proprio la manifestazione dell'autotutela di cassa, di privilegio. Erano lì a combattere per il loro posto nel listino bloccato. La parità non si impone. Non Io non faccio impone. Mai battaglie di genere. Sono, ripeto, la certificazione dell'inferiorità antropologica delle donne, pretendere delle quote in politica. Sì, sì. Io spero che le donne e gli uomini camminino in una comunità uno a fianco agli altri. Oh, questa è Indiana come frase, no? Marione, questa mi sembrava, no? Proprio... Sì, magari se le donne un passetto dietro, ecco. No, no, ma come? Sessista! Sessista! Mamma mia, ragazzi, ma Mario, ma cosa ti dà fastidio di questa cosa delle quote rosa? È una cosa pazzesca, ma come si fa? Ma neanche a immaginarla, ma come si fa neanche a immaginarla? Poi mi dà fastidio oggi il tono dei giornali, che sembra, capito, che è stato negato un diritto fondamentale. Cioè, è una cosa... C'è un voto democratico, il Parlamento sono andate sotto, una cosa insomma che mi sembra tragica, e viva la Sant'Anchè che lo sa dire, anche viva Aurora Lussana, insomma chi è donna veramente non vuole una quota, insomma, magari vuole vincere, batterci, ma poi non è una guerra tra sessi. Ma perché allora non c'è la quota ciccioni? Abbiamo diritto a una quota in quanto... E perché, no? Perché ti è venuta in mente questa... Così, per autotutela, diciamo. No, per autotutela, non lo so. No, ma tu, per esempio, vestito di bianco candido. Facevo vestito... Facevo bellissima figura. Sappi, quando mi sono sposato ho messo le righe orizzontali perché spinano. Appunto, infatti. Mi sembrava che... Me ne ricorda la foto, esatto, di Mario Adinolfi vestito di bianco. Stavi bene, no? Per esempio... Hai visto l'onorevole Buonanno, no? Vestito di bianco, lì, vestito da domatore, ha scritto oggi Repubblica. Cioè, effettivamente un giubbetto sembra da domatore. Ma no, era da cameriere. Da cameriere, vabbè, insomma. Sì. Ecco, Aurora, che t'ha combinato Buonanno, l'ennesima, insomma, vestito di bianco. Così un po' teatrale, vabbè. Comunque, ripeto, basta vittimismo femminile, basta autocommiserazione, basta accuse di sessismo alla Boldrini, basta, che non se ne può più. Poi ci odiano per forza gli uomini, secondo me, con la Boldrini. No, dai, adesso ma non esagerare. Sì, ma dai, no, ma però la questione rimane la questione politica, almeno Mario Adinolfi, su questo c'è una questione politica all'interno del PD, visto che voglio dire in 100, sempre 100, sempre 100, questo numero ricorre. Guarda abbastanza. Un po', guarda un po'. PD, che ovviamente il PD non tenga sulle cose diciamo di problematica a voto segreto, perché ricordiamo che le cose avvengono sempre a voto segreto. Anche ieri i tre emendamenti sulle quote rosa sono stati tutti e tre bocciati a voto segreto. Non so se l'esito sarebbe stato uguale a voto palese, ecco, questo ho detto francamente. Il PD non tiene, non ha una capacità di tenuta al momento di... Ma questo è ovvio, c'è una trazione di Renzi e un gruppo parlamentare tutto scelto da Bersani, quindi ovviamente Giuditta Pini stessa è una bersaniana di ferro, quindi è chiaro che vogliono insomma salvaguardare, fanno insomma che il prossimo giro vanno a casa, su, semplifichiamo la situazione. Fanno opera di resistenza e qualsiasi cosa allunghi la loro vita. Sì, però la questione è, allora, visto che lo stesso Renzi dice si occupino i partiti di questo, cara Aurora, te la rifaccio la domanda, la Lega come partito prevede una parità in qualche modo di genere, o comunque prevede una facilitazione anche che le donne facciano politica? No, noi siamo per l'abrogazione della legge Mancino, siamo tutte convinte noi donne della Lega. No, ma scusa, ne conosco di donne, non sono in Lega da poco, sono in Lega da quando ho 14 anni. Eccola, no, ne conosco di donne della Lega che tirano sui gazebo, mandano avanti le sezioni, fanno in maniera eccellente lavoro di sindaco, di assessore, fanno le parlamentari, fanno il coniglio alla bergamasca. Ah sì? No, perché la scorsa settimana ci hai detto della ricetta del coniglio alla bergamasca. Ho capito, ma fanno che facciano politica attivamente, cioè i partiti dovrebbero promuovere, questo secondo la linea di alcuni, promuovere al loro interno, no? Una sorta di facilitazione. Allora, Umberto Bossi disse sì. a Gadler in una solita intervista che la Lega stava crescendo perché in Lega stavano arrivando le donne. Ok, vuol dire quindi che è ovvio che quando arrivano all'interno di un movimento politico, di una comunità politica, le donne, vuol dire che è un partito che si sta radicando, che sta crescendo. Però ripeto, non si può imporre la parità di genere né la parità di rappresentanza. Le donne, se fanno politica, devono star lì perché c'hanno dei meriti. Punto, così come gli uomini. Va bene, va bene. Se no facciamo anche la quota valligiane, che sono io. E poi mi dicono, sei lì solo perché sei una valligiana. Quindi poi scatta il privilegio, la vabbè, qua ognuno vuole la quota, io vorrei la quota milanisti. Marione, devo dirti una cosa, che c'è qualcuno che mi scrive, ha ragione, sono 37 purtroppo. Mi sono mai sbagliato su qualcosa, Milan. quindi finirà quanto alla fine del campionato? Beh, 101-47. Il classico esagerato, mamma mia, ma come se la tirano sti gobbi maledetti, mamma mia, cioè, hanno alzato, erano in Serie B 5 anni fa, 6 anni fa, quando pensa come cambia la vita, come cambia la vita. Va bene, parliamo allora di cose, quote rosa le abbiamo, poi noi alle 8:15 avremo Alessia Mosca, sì, Alessia Mosca, Roberta Lombardi, avremo anche Nicola Porro, insomma parleremo di questo, ma l'altra questione è la questione economica. Allora, la domanda è questa: dove sono i soldi? Che poi la domanda sempre quando si deve tagliare, si deve tagliare le tasse, eccetera. Dove sono i soldi, Mario? Tu lo sai dove li trova Renzi, 10 miliardi entro domani, se hai qualcosa. Domani fa il Consiglio dei Ministri e ce lo deve dire per forza, insomma, per cui c'è un pezzo di spending review, da quello che ho visto, da anticipazione dei giornali. C'è anche tutta la spending review, c'è Letta che a scalfa di domenica ha detto che lui l'aveva già previsto, tipo di copertura. Non credo che il problema sia la copertura, detto francamente, il problema era dove metterli. Pare abbiano pure deciso di metterli tutti in busta paga, l'altra soluzione che trovo giusta, per cui non credo ci sarà un problema di copertura nel Consiglio dei Ministri domani. Speriamo che l'iter parlamentare poi del decreto sia quello sì, rapido, perché quindi sono una pregnaccia, 100 euro in più in tasca a tutti, a 11 milioni di italiani sono invece quindi dici, i soldi secondo te ci sono, comunque 24 ore ci devono essere, e vanno tutti sull'IRPEF questa sera. Tu sei renziano Adino Ferenziano. Aurora Lussana, se Renzi domani trova 10 miliardi entro domani li svela e vanno tutti in busta paga, a voi sta bene della Lega, oppure volete l'IRAP? Oggi per esempio il presidente di Confindustria Squinzi scrive al Corriere, dice abbattiamo l'IRAP, questa è la vi va bene, cara Aurora, a voi leghisti? Sì, la Lega se ci troviamo tutti in busta paga qualche soldino, tutti però, taglio di IRAP, IRPEF, sblocco di patto di stabilità, sono tutte proposte che la Lega ovviamente sostiene. Il problema è che lui è il luogotenente dei, lo dico? Cos'è? No, è il luogotenente comunque dei poteri sovranazionali europei, quindi hai visto tutto il dibattito sul fondo salva stati, sui fondi europei che non possiamo utilizzare per abbattere il cuneo, e non lo so, se domani ci stupirà bene, però lo vedo un po' col fiatone, Renzi. Lo vedi col fiatone. Allora, dopo il traffico e dopo l'amata segreteria telefonica da Maria Di Nolfi, ci faremo sentire anche, cara Aurora, un Salvini. Come possiamo non mettere il tuo capo capissimo, supremo, che tuona contro l'Europa? Ormai basta, la Lega, insomma, appena vedono euro escono di testa e dicono le peggio cose. Tra poco le sentiremo. 24 mattino. I comuni che rompono le scatole, invece di piangere, facessero pagare l'IMU alle false prime case, agli affitti in nero, prenderebbero milioni di euro, e invece no, e vanno tutti a bussare cassa allo Stato. Grillo, vai avanti, mettili tutti al muro, vai avanti per favore, vai avanti, mettili tutti al muro. No, volevo dire, d'accordo, con tutto rispetto per Fiorello che si è fatto male, ma non sento parlare, non sento come sta questo signore di 72 anni, non sappiamo niente, mi sembra che sia una cosa un po', beh, insomma, non bella. L'eccesso di democrazia porta inevitabilmente all'anarchia. Renzi continua a parlare, ma perché non fa? C'è già Grasso e la Boldrini che continuano a parlare. Faccia! Renzi, faccia! È l'uomo del fare, deve fare! Subito! Futuro epitaffio per Silvio. Qui è giacente Berlusconi, grande esperto in elezioni, ma di più, grande esperto in erezioni. Ormai non più. Milan, ho sentito la Lussana che prepara il coniglio alla bergamasca alle 6 di mattina. Ma che brava donna. Ma no, no, non può essere leghista, deve esserci uno sbaglio. I leghisti mangiano la frutta aggrappati ai rami degli alberi. No, no, no, ci deve essere uno sbaglio, non può essere leghista. Aurora, questa non è male, devo dire. Devo dire che non è male, eh? Un pochino, come dire. Vabbè, allora devo svelarvi la ricetta del giorno. Cosa sto facendo? No, cosa stai facendo? È il momento clou. Risotto con la salsiccia. Ma che risotto con la salsiccia? Arriva scotto, che lo fai? Lo mangi, no, a colazione? Vabbè, lo scaldo quando scusa Milan, la sera quando torno, che ho finito il lavoro in redazione, non c'è nessuno che mi fa da mangiare, mi scaldo quello che preparo la mattina. È fantastico, ma io non lo so, ma Mario, ma dille qualcosa tu. Ma c'è un uomo in quella casa? No, ma non lo so. È al lavoro, come tutti i padani, oh, va bene? Ecco, perché okay. Questo è il senso. No, perché a me mi cucinava il risotto alle 6 di mattina. Da una capocciata, cioè, poi dopo la sera. Vabbè, ma no, lo cucini perché te lo mangi alla sera, cioè, perché questa è la questione, Mario, tu non lo capisci, che Aurora ci fa capire che lei lavora mentre voi fancazzisti a Roma debosciati non fate niente. Lei già il risotto con la Luganega fa alle 6.50, capisci? Vabbè, anche la salsiccia bergamasca non era Lugano, cioè, sì, ha ragione, scusa, la salsiccia, no, chiedo venia. Vabbè, dai, Mario, che dici, oggi andavano bene? Buone, perché se la vendevano con la Lussana, quindi tutto bene. tutto a posto, finché sempre. C'era sempre quel filo di alcolismo delle 7 di mattina, però insomma va bene, erano strani oggi, no? un po' particolari, mettiti al muro, la poesia sulle elezioni in Berlusconi, cioè, solito quella che conta i milioni. C'è sempre roba da psicopatici, però va bene. Ma no, basta. Io prendo veramente la labarda e difendo il mio pubblico con lo scudo e la labarda. Merda, sì, no, eccola, ma smettila. È una citazione. Eccola. Pubblico di merda! Pubblico di merda! Vabbè, oggi l'ha rievocato. Allora, mi hanno fatto notare, caro Mila, che la citazione originale è degli Schianto di Flick Antoni, che poverino è morto. Io citavo Moretti che citava Flick Antoni. Vabbè, recupereremo anche Flick Antoni. Allora, e allora Salvini l'aveva detto, il cap, mettiti sull'attenti, lascia giù il mestolo un attimo, Aurora, metti giù, che anche se il brodo si rafferma un po', si raggruma il riso, dai, metti, fermati un attimo, mettiti sull'attenti, c'è Salvini contro lei, l'Europa boia che ci impicca. L'Europa è il boia che ci sta impiccando e ci dice cortesemente: non agitatevi, non muovete le manine e le gambine. Io vi sto impiccando, ho distrutto il principale concorrente fino a 15 anni fa dell'industria tedesca, ho distrutto la piccola impresa, ho distrutto l'artigianato. Perché l'ha distrutta l'Europa, Salvini, la piccola impresa. Assolutamente sì. Ecco, Marione, hai visto? No? Basta, ormai i leghisti sono così. No, io devo dire, io ho fatto le mie brave litigate televisive con Salvini, anche recentissimamente. Lui sta istintivamente simpatico. Cioè, mi piace, se la smazza tanto. Se la Lega avrà un risultato

è terrorismo? Questo finora ovviamente non si sa, è una delle ipotesi. Va bene, ma siamo al momento conclusivo, il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. A mio insindacabile giudizio, come sempre, oggi vince, stravince il Corriere della Sera con Elvira Serra che intervista, ma non negli spettacoli, così, e nelle notizie di cronaca, un'intervista a Laura Chiatti. Vabbè, Laura, i nipoti, il fidanzato e la felicità, ma non riesce a vedersi bella com'è. Ma, niente, e perché non è? Perché soffre di... Oh, mamma mia, adesso me la son persa. Di che soffre? Dismorfofobia. Cioè, si vede allo specchio e si vede un cesso. Questo è Laura Chiatti. Questo è... Ma che... Ma... La carta costa, punto. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, c'è chi l'ha presa male ieri in Parlamento, come la deputata Roberta Agostini del PD, che è tra l'altro la prima firmataria degli emendamenti che intendevano introdurre la parità di genere nella legge elettorale. Oggi sull'Unità Roberta Agostini, incredula, dice: ma come, il mio partito, il PD, ha votato contro? Eh sì, perché c'è questa storia di 100 franchi tiratori che tornano. C'è chi l'ha presa, forse lo prende come un pretesto, come Rosi Bindi, che su Repubblica annuncia ora questo vulnus inaccettabile del parità di genere che non è passata, mi spinge a non votare la legge elettorale. C'è infine chi la prende, come dire, in un modo un po' rancoroso, si può dire, l'onorevole Giuditta Pini del Partito Democratico ha twittato la seguente frase: che lo spirito di Lorena Bobbitt accompagni stanotte i colleghi che hanno bocciato l'emendamento. Lorena Bobbitt, insomma, se non la ricordate, è quella che evirò il marito. Allora, la vicenda è quella della parità, delle cosiddette quote rosa, della parità di genere. Ci sarà sicuramente anche qualche parlamentare che l'ha presa bene perché era contraria, come per esempio Roberta Lombardi, che è onorevole del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e ben ritrovata. Lei l'ha presa benissimo, immagino. Buongiorno, ben trovata a lei e agli ascoltatori. Ma non è che noi abbiamo preso benissimo il fatto che non venisse votata la parità di genere, semplicemente ci è sembrato un falso problema su una legge che presenta tantissime criticità, sia per quanto riguarda la rappresentanza, la rappresentatività dei futuri eletti, sia per quanto riguarda altri rilievi di carattere costituzionale che presentava il Porcellum e che presenta anche questa stessa legge che stiamo votando in questi giorni. Quindi, diciamo, quindi ieri aver sospeso l'aula tutto il giorno per cercare l'accordo sulle quote di genere quando c'erano ben altri problemi ci ha fatto sorridere. Mi pare che lei mi hanno detto che lei si è presentata addirittura con la maglia nera, in contrasto con lo sfoggiare le maglie bianche. È vero? Ammesso? Sì, vero, ieri ero vestita di nero, ma devo ammettere che è stato del tutto casuale. Non sarei informata. Ma come? L'iniziativa delle colleghe, ma come? Delle vestali, delle quote rosa. Ma come? Ma oggi sui giornali è tutte in bianco. Non so, vediamo come l'ha presa Alessia Mosca del Partito Democratico, che saluto. Onorevole Mosca, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Non le chiedo ovviamente se lei fa parte dei cosiddetti franchi tiratori, immagino essendo donna, no, avrà votato a favore, no? No, ma non solo essendo donna, sono... insomma, la mia storia, sono una delle promotrici della legge sulle quote nei consigli di amministrazione, quindi insomma io credo profondamente che purtroppo nel nostro paese sia necessario fare delle forzature, perché in modo naturale arriveremmo ad una parità di rappresentanza forse nel 2100, date la lentezza con cui tutto il resto nel nostro paese rispetto alla parità di genere si sta muovendo. Quindi io non amo lo strumento quote ideologicamente, penso solo che sia uno strumento necessario per correggere delle storture, per questo l'ho presa molto male e penso che sia un passo indietro, penso anche che non sia tutto detto, nel senso che noi questa mattina abbiamo una riunione perché vogliamo porre al nostro... abbiamo discusso fino a ieri sera tardi e vogliamo fare in modo che ci sia una possibilità di correggere o nei prossimi passaggi che avremo ancora alla Camera prima della chiusura della legge o al Senato questa legge. Se io ricordo tra l'altro l'onorevole Mosca insieme a, credo a quella che era l'onorevole Lalla Golfo, che adesso non è più onorevole, no? Lei ha promosso questa legge per le quote rosa nei consigli di amministrazione, no? Delle società quotate, esatto, in borsa. E quindi è una battaglia che lei fa personalmente da tempo. E che ne pensa però dei cosiddetti franchi tiratori? Tra l'altro sempre 100, spunta questo numero, no? I 101 che impallinarono Prodi, i 100 adesso che più o meno, no? Che secondo calcoli avrebbero votato contro l'idea del partito, contro la linea del partito del PD. Che succede? Ma non penso niente, nel senso che non penso che in questo momento sia utile interrogarsi su quali siano le motivazioni di chi ha deciso di votare diversamente. Ci sono diverse ragioni probabilmente. A me quello che interessa è capire se riusciamo a ottenere il risultato, perché è quello che mi sta veramente a cuore. Io lo faccio davvero perché penso che un paese come il nostro, che è riuscito a sfatare il mito che fare delle correzioni appunto con la legge sulle quote nei consigli di amministrazione, ma ricordo nella passata legislatura abbiamo fatto anche la battaglia per la doppia preferenza di genere, che è passata e che ha consentito nei consigli comunali di fare eleggere tante donne che non sarebbero state elette. E ho capito, ma qui si può contrastare, perché per molti che ci siano state queste battaglie, credo che sia che sono state vittoriose, credo che sia la premessa per cui noi non dobbiamo fare dei passi indietro. No, ma è chiaro. Chi non ci crede deve essere convinto. Ma questo vuol dire anche siete pronti a bloccare l'Italicum così com'è? Allora, per noi abbiamo sempre detto che non vogliamo usare questa arma come strumento di sabotaggio per una riforma che riteniamo necessaria. Okay. E pensiamo che, così come noi abbiamo ingoiato, perché in un accordo purtroppo si ingoiano pezzi di leggi che non si amano, noi abbiamo ingoiato tante cose che non ci piacciono, penso che sulla parità di genere qualcosa la possano ingoiare anche quelli che non sono d'accordo. Quando lei dice noi, cosa vuol dire? Noi del PD, noi 90 parlamentari trasversali, noi... Sì, ma diciamo questa legge ha dei pezzi che con maggioranze variabili non sono state amate. Negli accordi sappiamo che è così, sulla parità di genere io penso che sia giusto farne un punto valoriale. Lo so, però l'Aula ha votato così, cioè piaccia o no, nel senso che l'Aula ha bocciato questa cosa. Mi faccio tornare per un attimo all'onorevole Lombardi. Onorevole Lombardi, le chiedo questo, al di là del fatto che questa legge elettorale al Movimento 5 Stelle non piace, questo abbiamo capito, quindi lei dice è la legge nella sua globalità che contestiamo. Uscendo un attimo dalla questione legge elettorale, fosse un'altra legge elettorale, una legge elettorale che vi piace, la questione delle quote rosa lei la capisce oppure la contesta come principio in generale? In realtà noi la contestiamo come principio in generale, le faccio qualche esempio. Noi l'anno scorso abbiamo fatto una votazione per candidarci al Parlamento online, senza prevedere quote rosa, e naturalmente, senza nessun genere di riserva panda, come la chiamiamo noi questa delle quote rosa, il 55% delle donne scelte, dei capolista, erano donne, scelte in libertà dagli iscritti al Movimento 5 Stelle. Un altro esempio, dei miei 7 consiglieri regionali eletti l'anno scorso in Regione Lazio, 4 sono donne e 3 sono uomini, quindi elezioni avvenute attraverso l'espressione di preferenze, perché nelle leggi regionali è ancora possibile scegliersi il proprio rappresentante nelle istituzioni. E l'anno scorso sempre io ho curato la presentazione delle liste per le elezioni regionali che le dicevo prima, e la legge elettorale della Regione Lazio prevede che tu abbia una quota di un terzo dei candidati riservata ad almeno al sesso debole, fondamentalmente, perché poi insomma è quella la penuria dove c'è penuria di candidati, e non sa quanta fatica abbiamo fatto noi a trovare un terzo di donne che effettivamente si candidasse perché volesse avere una chance di concorrere. Cioè lei dice quindi massima libertà senza voler imporre niente, proprio perché per, si... si trova anche, si trova poi la difficoltà a trovare donne. Perché il problema vero nostro della partecipazione alla vita politica è il fatto che non abbiamo, siamo talmente tanto costrette in tutti quei ruoli che ci siamo anche liberamente scelte, ma che la nostra società non ci aiuta a gestire in maniera da poter liberare spazio poi per poter svolgere anche attività politica, piuttosto che magari coltivare un hobby. Cioè, nel momento in cui io sono madre, moglie, lavoratrice, ho una casa da mandare avanti, non ho il tempo per seguire magari una mia passione che potrebbe essere dalla squadra di calcio al volontariato nell'associazione sotto casa. Vorrei invece lavorare magari anche con le colleghe del PD, dei partiti, così, ad una nuova legge che crei quella rete sociale e di assistenza alla donna, alla famiglia, sì, ma che permetta alla donna di appunto trovare quel tempo e quegli spazi per potersi, sì, lei dice, cioè creiamolo di fatto nel paese, esatto, magari con gli asili nido, con investire nel welfare che aiuti le donne a essere madri, compagne, lavoratrici. Nel momento in cui tu lavori, parti in condizioni di parità con i tuoi colleghi maschi, naturalmente vieni premiata perché la donna ha delle donne. No, ma è interessante, onorevole Mosca, non è garantendo una migliore parità di base che si garantisce la vera quota rosa, dice Roberta Lombardi, invece che creare le quote panda per legge? Ma intanto non sono le quote panda, io sono d'accordissimo con la collega Lombardi, sono tanto d'accordo nel dirle anche che le due cose non sono in alternativa, e guarda caso proprio quelle cose, quelle poche purtroppo cose che nel nostro paese sono state fatte per aiutare le donne a partire in condizioni di parità, sono state fatte da donne che erano nelle istituzioni. Quindi se nelle istituzioni non ci sono donne, io mi chiedo chi le porta avanti con più forza e con più coraggio queste proposte, queste iniziative. Io questa battaglia la faccio non per il mio partito, perché in questo Parlamento anche il mio partito, il mio gruppo ha una percentuale di donne che non è mai stata presente nella nostra storia, ma se noi non garantiamo che ci siano questa possibilità per tante altre donne di tutti i gruppi di essere presenti, noi non possiamo fare dei passi in avanti a tutto il Paese proprio per quelle cose che si diceva prima, per un welfare che sia più attento alle esigenze anche delle donne, perché sappiamo bene quali sono tutti questi tutto ciò che noi dobbiamo fare per mettere le donne nelle stesse condizioni. Dico l'ultimo dato che è eclatante: nell'ultima elezioni regionali che ci sono state in Regione Sardegna, su 60 consiglieri regionali solo 4 sono state donne, perché non c'era correttivo. Quindi non è una cosa che io faccio perché e mi posso lavare la coscienza perché il mio partito o la mia parte in qualche modo garantisce che ci sia una presenza. Lo faccio perché tutto il Paese abbia la possibilità di fare un passo in avanti. Ma ci sono stati casi anche di giunte che sono cadute perché non c'era la parità. Ci sono casi effettivamente, come citava l'onorevole Lombardi, anche di paesi dove ci sono l'imposizione di dire bisogna mettere appunto metà e metà, e si fa fatica a trovare candidate donne, si fa fatica a trovare donne che riescono anche a conciliare magari la vita di tutti i giorni con magari l'attività di fare l'assessore di un piccolo comune. Insomma, è una problematica un pochino complessa, c'è da dire. Oggi fanno notare i giornali, per esempio, che in tutti i paesi europei non esiste una legge di questo tipo, almeno nella legge elettorale. Ci sono sicuramente delle condizioni generali della società più favorevoli a che le donne possano anche fare politica, come anche altre attività. No, però non è vero, perché non è che non ci siano dei correttivi. In alcuni paesi ci sono correttivi attualmente, in altri paesi ci sono stati in passato, e noi portiamo sempre l'esempio dei paesi scandinavi, e i paesi scandinavi hanno oggi un sistema di welfare, un sistema tale che consente davvero che ci sia una parità nei fatti. Ma vede che è lì il punto, le quote erano state poste molti anni fa, e quindi da lì si è partito. Poi oggi non c'è più bisogno delle quote. Io sono non attaccata attaccata allo strumento quote. Le quote sono solo uno strumento. Sì. Io vorrei che mia per forzare figlia la situazione, figlie, lei dice bisogna forzare una situazione. Che hanno l'età di mia figlia non abbiano più bisogno di nessuna forzatura quando sarà il loro. Lei dice adesso bisogna forzare questa situazione perché si creino le condizioni perché tra 20-30 anni non si parli più di questo problema, perché non è più un problema, appunto, perché naturalmente donne e uomini avranno le stesse possibilità di emergere. Le 8:32 minuti, rimanete con noi, 5 minuti di pubblicità con Roberto Lombardi e Alessia Mosca, rientriamo tra poco. 24 mattino. Allora, quote rosa sì o no? Siamo con Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, Alessia Mosca del Partito Democratico, ci ha raggiunto e lo saluto, lo ringrazio, Nicola Porro, vice direttore del giornale, conduttore di Virus su Rai 2. Buongiorno Porro, eccoci qua. Buongiorno a voi. Allora, oggi il giornale titola La farsa delle quote rosa, addirittura, perché sarebbe una farsa questa delle quote rosa? Ma insomma, una farsa, e i titoli del giornale sono sempre molto, come posso dire, strillati. Io dirò di peggio, cioè secondo me abbiamo perso un sacco di tempo. Il tema delle quote rosa, cioè del peso e dell'importanza che devono avere le donne e sulla discriminazione che si fa nelle donne e delle mamme, è un tema talmente fondamentale che affidarlo alle quote rosa mi sembra una... non si possono dire parolacce, però una stupidaggine. Abbiamo visto uno dei pochi lunedì in cui il Parlamento era pieno, le donne si vestivano di bianco per affermare questa fondamentale questione delle quote rosa in Parlamento, e io penso che questo sia l'ultimo dei problemi che le donne hanno oggi in Parlamento, tra l'altro fatto da donne che non sono state altrettanto attive, questo non vale per tutte, su cose molto più importanti che hanno riguardato le donne negli ultimi anni. Faccio un esempio, perché non voglio essere non voglio dire cose senza numeri. La CGIL, non il giornale, ha calcolato che dopo la gravidanza 20.000 donne non sono più potute ritornare al lavoro. Vogliamo parlare della questione degli asili in Italia? Vogliamo parlare dei costi di diventare madre in questo paese? Adesso che io mi veda 90 donne che fanno la battaglia sulle quote rosa, è una cosa che mi fa girare le palle. Questo lo dico però con rispetto. No, ma è chiaro, esattamente perché penso che sia fondamentale il tema delle donne, e lo dico, scusami, poi mi sto zitto, perché un paese che non riesce ad avere un tasso di occupazione femminile come il nostro decente è un paese che crescerà sempre poco. Il nostro è il paese, e concludo, in cui c'è una percentuale di donne in Parlamento superiore a molti dei nostri concorrenti europei, ma di molto superiore al 31% rispetto agli Stati Uniti, addirittura, che non è Europa, che hanno il 17%, è ridicola la loro posizione. Ma è un paese che non riesce a impiegare le donne, e spesso le donne vengono impiegate in questo paese in nero, senza contributi, e con le famose condizioni, diciamo, illegali nei confronti delle donne, e noi stiamo facendo la battaglia perché si abbia la parità di genere in è quello che un po' onorevole Mosca diceva lei, però l'onorevole Mosca, dice Nicola Porro, è un pretesto, una forzatura, se vogliamo, quella delle quote rosa, affinché tra 20-30 anni quei problemi che tu hai detto che sono sicuramente sul piatto saranno affrontati anche attraverso questa forzatura, una forzatura che non piace alla stessa onorevole Mosca, che però è favorevole a questa cosa, per arrivare a un mondo migliore in cui le problematiche che hai messo sul piatto tu non ci saranno più, e non ci sarà più problema e non ci sarà più questione di parlare delle quote rosa. Questa è la questione, Nicola. Allora, questa è un'obiezione che non ho sentito, ma che è assolutamente invece condivisibile, onorevole Mosca. Se questo è il tema, è un tema simbolico, voglio dire, per i simboli uno deve fare anche cose che possono apparire a primo vista, sì, insomma, un po' ridicole. Quindi va bene, io non ci credo, va bene? Non ci credo. Credo l'onorevole Mosca, ma non ci credo, perché io quando vedo alcune deputate che fanno questa battaglia e che vedo per la prima volta in Parlamento di lunedì mattina vestirsi di bianco per fare questa battaglia, scusami, ma ho un pregiudizio. Io penso che loro stiano pensando semplicemente che al proprio futuro. Sistema elettorale, sì, perché il nuovo sistema elettorale porterà dei nominati, esattamente come il vecchio. No, ma è chiaro. 140, come ha fatto vedere Dalimonte sul tuo giornale, sul giornale, sul Sole 24 Ore, il centrodestra, se dovesse perdere, su 146 collegi, si prenderebbe 140, 150 seggi, solo i capolista. No, e ma questa infatti è un'opposizione, un'obiezione che viene fatta. Onorevole Mosca, voleva replicare Nicola Porro? Sì, io voglio ringraziare Nicola Porro perché su tutta la prima parte dell'intervento, come avevo avuto modo già di dire nella prima parte della nostra trasmissione, sono perfettamente d'accordo e non solo, penso che sia anche una bella occasione il fatto che anche grazie a questa battaglia si parli di un tema che purtroppo viene discusso solo molto raramente, se non in occasione del 8 di marzo e qualche altra rara occasione, mentre una delle battaglie che io personalmente sto conducendo è che questo tema della disoccupazione femminile, delle condizioni delle donne sì, in Italia... Sì, ma il timore invece, onorevole Mosca, è che tra due giorni non si parli più di questa cosa, cioè il timore è questo. Sì, però il fatto che noi abbiamo fatto una serie di battaglie, saranno anche simboliche, poi ho già spiegato che secondo me non sono solo simboliche, ma saranno anche simboliche, servono perché noi abbiamo bisogno anche di far progredire nel nostro paese una cultura diversa che abbia più attenzione in questo. Ricordo solo una cosa, il fatto che questo Parlamento sia il Parlamento che ha la più alta percentuale di donne, anche di altri paesi, questo è vero, ma è la prima volta nella storia, noi partivamo da un livello di arretratezza rispetto agli altri paesi, assai pesante, e forse c'è una correlazione diretta rispetto al fatto che anche le politiche di genere non siano state avanzate come negli altri paesi. Noi abbiamo questa percentuale da meno di un anno e quindi penso che forse qualche interrogativo in più. No, ma è chiaro, però Nicola Porro dice non gli piace questa battaglia fatta soprattutto da molte parlamentari che ha visto per la prima volta il lunedì. Io però devo fare questo, devo liberare e ringraziare l'onorevole Alessia Mosca e l'onorevole Lombardi, la quale voglio fare una domanda conclusiva. Poi mi concentro con Nicola Porro, Nicola, anche a parlare di qualcosa di economia, cioè qualcosa che domani potrebbe diventare davvero concreta se ci sono questi soldi. Onorevole Lombardi, rimanete con la ferma opposizione all'Italicum, immagino. Sperate che ci sia un fronte, paradossalmente, anche su questa battaglia sulle quote di genere, che possa trasformarsi in un fronte di ribellione, anche se per altri motivi, per far naufragare questa legge elettorale? Assolutamente sì, ma anche perché questa legge elettorale ha due soli padri, perché quando poi vai, che sono Renzi e Berlusconi, perché quando poi vai a parlare con i colleghi del PD, qualche volta anche di insomma Forza Italia, Nuovo Centrodestra, insomma, tutte le varie forze che compongono la maggioranza in maniera palese o diciamo fanno da sostegno alla maggioranza, vedi che nessuno si appropria di questa legge elettorale e dice sì, in effetti stiamo facendo una legge elettorale che è quella che garantirà la maggiore rappresentatività possibile o la maggiore governabilità possibile, otterrà conto di quelli che sono stati i rilievi mossi dalla Corte Costituzionale. Tutti in un certo qual modo la rinnegano, anche pensi l'altro giorno parlando con la ministra Boschi relativamente a un'altra battaglia che erano le soglie di sbarramento per i partiti minori, diciamo nelle coalizioni, chiedevamo insieme ai partiti piccoli di abbassare queste soglie proprio perché simulazioni alla mano del Servizio Studi della Camera, quindi un soggetto assolutamente neutrale, vedevamo che per le soglie così come sono introdotte adesso, mantenendole a quei livelli, cioè soprattutto il 4,5% nelle forze in coalizione, tu dai non dai la possibilità di essere rappresentati, i dati elettorali delle scorse tornate elettorali alla mano, di essere rappresentati dai 6 ai 10 milioni di elettori. Sì. Nel momento in cui noi siamo andati a dire alla Boschi questa cosa, ma perché non ti esprimi, perché non dai un parere, perché molte forze oltre la nostra chiedevano un suo intervento, una spiegazione nel merito di questa norma, e lei ha detto, dice, questa non è la legge elettorale del mio governo, ma è una legge elettorale che viene dall'accordo di due forze, una all'interno del mio governo e una fuori. Dice, non è la legge elettorale del mio governo, se neanche il governo stesso. Mi sta dicendo che il ministro Boschi disconosce la legge voluta da Renzi, quindi il premier, il suo premier, anche se non era premier, in un accordo con Berlusconi. Non è che disconosce. ha spiegato anche lì che non era, diciamo, prodotto del governo. Governo, e quindi anche lì, però, se non sono loro stessi che se ne fanno, diciamo, difensori, io mi domando, dico chi la difende. Vabbè, insomma, è questo, certo. Intanto io ringrazio Roberta Lombardi, ringrazio Alessia Mosca. Vabbè, adesso ripartirò proprio da qui tra un minuto dopo il traffico con Nicola Porro a capire se davvero può essere disconosciuta dalla stessa ministra Boschi una legge che effettivamente non è stata fatta da Renzi premier, ma adesso premier lo è, quindi in qualche modo una legge voluta e spinta dal governo lo è. Allora, Nicola Porro, già il ministro Boschi ha i suoi problemi, la satira, le accuse, le questioni, ci manca solo di identificarla come lei che impallina la legge elettorale voluta da Renzi. No, no, no, no, non penso, non è penso così. Proprio. Non è così. No. Domani invece che succede? Perché oggi, ecco, altro titolo del giornale, insomma, questi soldi parrebbero, come dire, spuntare dal nulla, non ci sono le coperture, ma non basta attendere 24 ore, non è che Renzi dice una cosa e poi domani si presenta e dice: cari italiani, ho scherzato, i soldi non ci sono più, com'è? No, questo non può farlo, però il tema secondo me è fondamentale, altro che, scusami, è il tema delle quote rotte. No, ma chiaro. Stiamo parlando qua di una cosa fondamentale e devo dire adesso, la radio della Confindustria, però oggi il tema centrale l'ha posto il presidente della Confindustria, quando forse ne hai già parlato. Sì, no? Nella lettera pubblicata al Corriere della Sera. Ragazzi, qui bisogna capire una cosa. Intanto 10 miliardi, che sembrano una cifra enorme, non sono una cifra enorme. Basti pensare che il cuneo fiscale vale 300 miliardi, quindi puoi immaginare come 10 miliardi non siano. Se fossero tutti dedicati al cuneo fiscale, e non sarà così, già quelli non sarebbero una cifra enorme. Il tema è: come diamo una svolta anche psicologica a questo paese? Abbiamo 10 miliardi, dobbiamo dargli una svolta, quindi deve essere una botta chiara, netta, e un percorso di riduzione che dia a chi investe un po', come posso dire, secondo me quel twist in più per dire: beh ragazzi, stanno cambiando le cose. Se noi mercoledì vediamo una cosa pasticciata, divisa un po' tra quello che vuole Confindustria, un po' quello che vogliono i sindacati, la sinistra, la CGIL, gli alti e bassi, non diamo ascolto a nessuno, buttiamo via 10 miliardi. Se invece si dà una botta secca, chiara e netta, in cui si dice: noi investiamo, noi intenso governo, nel ridurre le imposte per le imprese in maniera tale che sono loro che assumono e che si rendono conto che nel futuro non siamo nemici delle imprese, beh, francamente, secondo me c'è la svolta, però anticipo... c'è il rischio che ci sia, ecco. No, no, ma è chiaro, però la stampa oggi titola in prima pagina: Matteo Renzi ha già deciso, questi 10 miliardi vanno tutti alle famiglie, quindi all'IRPEF, dicendo anche le imprese non saranno contente, ma ho parlato col presidente di Confindustria Squinzi, capirà che è con la sburocratizzazione che si aiuta al rilancio delle imprese. Sta di fatto che, insomma, ti appassiona questo derby, come è definito, IRAP o IRPOF, oppure intanto è meglio che dei soldi arrivino a qualcuno? Allora, capisco la tua domanda, però mi appassiona, perché forse sono un appassionato di cose ti occupi di questo? No, esatto. Perché ti occupi anche di questo, sono cose importanti. Sì, esatto, però mi appassiona. Tu devi pensare che qua il lavoro in Italia lo fanno le imprese, e le imprese non sono soltanto la Fiat, le imprese sono anche quelle che pagano l'IRAP con 4, 5, 6 dipendenti. Gli studi professionali con 8 persone pagano l'IRAP, l'imposta più assurda che esista al mondo. Quindi mi appassiona, perché dare 80 euro in più a te o a me in busta paga, perché questo vuol dire probabilmente, a meno che non ci siano le detrazioni, a quel punto se c'è l'elemento delle detrazioni assolutamente non le prendiamo neanche io e te, ma lo prendono soltanto una certa categoria di persone con redditi più bassi, non cambia nulla, non serve a nulla. Io penso che lo Stato è uno Stato cattivo, che sta prendendoci troppi soldi, quindi figurati se non sono contento se ci restituisce 10 miliardi, figurati se non sono contento che le fasce più deboli arrivano 80 euro, ma qua il tema è un altro. Come facciamo ripartire l'economia? Attraverso i consumi, quindi 80 euro in più alle fasce più deboli, o attraverso le imprese che devono investire, devono assumere? Io l'ho scritto l'altro giorno, un McDonald's, che poi ci sono anche tante polemiche su di loro, ma a me non interessa, un McDonald's a Milano impiega 30 persone, lo stesso identico McDonald's per fatturato ed utili a Madrid ne impiega 40, e sai perché? Perché quello italiano non può permettersi 40 persone, sono 10 persone. 10 posti di lavoro, 10 posti di lavoro. 10 per è meglio, adesso io non, cioè, non è che Squinzi dice sempre il Vangelo, però stavolta io abbastanza lo condivido, qua bisogna dire. Francamente è dalle imprese che si trova il lavoro, no, ma è chiaro, l'ultima questione è molto, molto dibattuta e che oggi sui giornali però è rilanciata, è la questione del rapporto con i sindacati, perché Renzi insomma con la Camusso, allora sempre la stampa dice una questione caratteriale, non ci piglia con la Camusso dice che è rancoroso e livoroso e lui invece si trova bene con Landini, ma al di là di queste questioni personali, fa bene Renzi a dire i sindacati ci diranno contro e ce ne faremo una ragione, oppure è il modo in cui deve trattare un Presidente del Consiglio? Ma a me fa simpatia questa cosa qua, ti dico la verità, perché la concertazione è quella che ci ha portato alla situazione in cui ci troviamo oggi. Ascoltare troppo sindacati e anche datori di lavoro è stato uno degli elementi del pantano in cui siamo. I governi devono governare, se devono contrattare tutto quanto a Palazzo Chigi con 525 sedie, sigle e degli organismi intermedi, diventa un casino. Quindi se questo vuol dire che i presidenti del Consiglio si assumono la responsabilità delle politiche economiche e poi certo le trattano, le capiscono con le parti sociali, questo è fuori di dubbio, però cioè, l'epoca della concertazione deve finire e la CGIL ha fatto più danni nella politica economica di quanto possa aver fatto la sinistra all'interno del Parlamento con le leggi conservative. Dici meglio la mail dei tavoli di lavoro, come dice Renzi. Vabbè. Guarda, posso dirti sì, poi il fatto che Renzi vada da più d'accordo con Landini che con la Camusso è una cosa che me lo dovranno spiegare come sia possibile. Ma infatti anche che Renzi dice taglio le tasse, la FIOM esulta e la CGIL minaccia lo sciopero. È il mondo che va sotto sopra, è tutto un po' la CGIL che anticipa la FIOM nella richiesta di sciopero, qualcosa che insomma forse anche in queste cose un po' il mondo sta cambiando. Ringrazio Nicola Porro, grazie per essere stato con noi, ricordo Virus su Rai 2 il venerdì e anche vice direttore del giornale. Ci fermiamo qui con Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi in redazione, vi diamo l'appuntamento con l'alpino Peter Bescapè. A domattina 6:30 puntuali. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.